이제 아유 아유 아유 비 아유 비 아유 아유 cammino nel mattino per la strada ma non so dove sto andando un giro a fare un giro sto pensando ascoltando note in cuffie rivestite in gomma piuma mi masturbano le orecchie storte la mia luna tite imbastite con un wonder bra mi catturano lo sguardo sbra c'è una mastellina mi giro in tiro quando ammiro il culo penso oh vie se fossi io un emiro la vorrei nell'are ma lei continua la sua via io la mia vedo ferma in via brigata Sassari la polizia e sono lì che dico tira fuori i documenti a un poveraccio ubriaco quasi senza denti il tipo sbotta si infotta dalla bocca fiotta l'aroma al vino e alcol mi sbuffutta la giusta futta indietreggia quando rutta pensa che vomita la sua divisa asciutta la pasta asciutta mi aspetta a casa faccio un giro largo mentre ascolto un rap di Mozart ciò che so è che stai gira Sassari ti gonfia sai gira Fagasi non sai che fare mai così so che stai gira Sassari poi che fai in giro stai con gli amici c'hai guai nel cervello se non esci mai ti perdi il bello sai oh yo ya ya mi svegliai di sera uscì all'aria sai con gli amici che tu sai ore? Le 8:30 frenzo di presenza le 9 siamo senza densa birra immensa la stessa stanza per ore 3 3 ore di birronzia più discorsi tete a te 2 ore dopo vaneggiando non poco chiusi in altro occo ci compiace un sincopato gioco corpo a fuoco se ne vedo 2 o 3 mi fiondo cotto per parlare per scattiare se non becco nulla, ma attacca bocca ampulla, mi metta giù l'arare, un po' si balla e dopo in culla. Ciò che so è che stai, gira Sassari, ti gonfia sai, gira Fagasi, non sai che fare mai così, so che stai, gira Sassari, ciò che so è che stai, gira Sassari, ti gonfia sai, gira Fagasi, non sai che fare mai così. So che stai, gira Sassari.